Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Con 1.000 euro ti do il tuo DNA. Sono un'occasionaccia. Benvenuti a Möbius, ne parliamo fra poco. Adesso i titoli. $1.000 per decodificare il proprio DNA. Vantaggi terapeutici o molti più problemi sociali e giuridici? Mercury 13, la vicenda di un team di donne astronaute americane, addestrate negli anni 50, ma che non riuscirono mai a prendere il volo. Gli ascoltatori ci chiedono: la Luna influenza la crescita dei capelli? Scopriamo gli influssi del nostro satellite tra mitologia e realtà. Il futuro dell'energia è un libro con alcune riflessioni nuove su un tema che è sempre più attuale. E di questa occasionaccia sul DNA ne parlo con Amedeo Santosuosso. Buonasera Santosuosso. Buonasera. Magistrato, però da tempo è diventato uno, forse il migliore esperto che abbiamo in Italia, lo dico io, per quanto riguarda questo complesso rapporto fra scienza, tecnologie, nuove tecnologie, innovazione e tutto ciò che è giustizia, e quindi anche ha prodotto di recente dei saggi corposi in questa direzione. Allora, la notizia è arrivata a metà settimana, arriva dagli Stati Uniti, ha occupato anche la prima pagina del New York Times, anche del Wall Street Journal. 1.000 euro per farsi uno screening totale del proprio DNA. Questa cosa è basata sul fatto, è inutile adesso entrare nei particolari, che è arrivata una nuova apparecchiatura in grado di svolgere questa operazione molto rapidamente, molto efficientemente, a un costo relativamente basso, perché di solito gli screening di questi di un DNA sono decisamente più costosi. Quindi sta arrivando in casa. Ci sono state delle forzature nelle notizie, no, Santosuosso? Perché si è detto si apre una grande opportunità per terapie di massa, per gli ospedali. Questo non è vero, no? Lei lo sa. Sì. Perché non è vero che un luogo terapeutico può avere qualche vantaggio dal fatto di fare il DNA a una persona ricoverata. Non è questo il punto, non è che si trovano medicine, dosi da dare a seconda delle patologie, certo. Però qui l'elemento di novità è il basso costo e quindi il fatto che si possa aprire una grande stagione di screening di DNA. Qual è la sua opinione? Questa era una cosa che era attesa, si sapeva che doveva accadere ed è puntualmente accaduta. Ora, su questo e in generale sulla possibilità di conoscere di più sul nostro corpo, sulla nostra costituzione fisica, si fronteggiano due atteggiamenti fondamentali. Uno è quello che dice è giusto che si sappia, quanto più si sa meglio è, e l'altro è quello che dice: oddio, qui si sa troppo, questo troppo è inutile, oppure questo troppo può essere rischioso perché mette a repentaglio, ci sono rischi di discriminazione sociale e altre cose di violazione della privacy e via dicendo. Allora, io credo che la questione fondamentale da chiarire è che mentre sapere è un qualcosa che può sollevare dei problemi, però è comunque un valore, il non sapere non si può teorizzare come valore. Allora, considerato anche il fatto che, diciamo, questo tipo di disponibilità tecnologiche, di informazioni, sono comunque accessibili prima o poi, anche se all'inizio in cerchie più ristrette, bisogna fare i conti dal punto di vista pratico. Allora, dal punto di vista pratico, come accennava lei un attimo fa, è chiaramente è sbagliato, al limite della comunicazione fuorviante e fraudolenta, il far credere che da questa informazione si possa avere una migliore cura oggi. Ecco, questa è una cosa totalmente falsa per quello che io so da un punto di vista scientifico. Allora è importante che, per esempio, nelle scelte che la sanità, in particolare penso a quella pubblica, andasse a fare nel prossimo periodo, non si facciano delle scelte che finiscono con l'essere terribilmente onerose in ipotesi, cioè il diffondersi a macchia d'olio di questo tipo di esami sulla base del presupposto che si sa qualcosa questa. E in più, ma quando si tratta di fare scelte sanitarie non siamo più in un ambito di ricerca, e nelle scelte sanitarie bisogna fare quelle scelte che garantiscono un risultato utile per il singolo in una valutazione comparativa dei costi per la società. Io non vorrei che domani qualche amministratore che vuol fare particolarmente l'innovativo dice: ah bene, facciamo lo screening a tutta la popolazione, e in quel modo magari rischia di fare delle belle campagne elettorali e di stringere dei buoni accordi con dei fornitori che sono dei fornitori di qualcosa che non serve a nulla. E quindi diciamo che questo tema ora si presenta come centrale, ma è il classico tema della giustezza e dell'appropriatezza delle scelte che vengono fatte soprattutto dalla sanità pubblica. Ecco. Perché qui verrebbe a crearsi una situazione abbastanza curiosa, e cioè se viene coperto dalla spesa sanitaria, allora possono accedere tutti, e ci troviamo però col fatto che appunto questo esame si può identificare delle predisposizioni genetiche, ma non è terapeutico. Se però non passa, ma resta l'opportunità di poterlo fare dando 1.000 euro, per esempio, beh, allora qui quello succede che ci dividiamo in quelli che hanno i soldi per poterlo fare e gli altri no. Però resta il fatto che ne so, magari ci potrebbe essere un certo uso personale per dire: oh ragazzi, io ho fatto lo screening del mio DNA, è tutto a posto, e gli altri restano nel dubbio. Quindi viene fuori veramente un bel pasticcio, no? Sì, questo è il pasticcio in parte inevitabile e in parte secondo me evitabile con una corretta informazione. Qui l'informazione è veramente decisiva. Ultimo aspetto, tra quelli generali, poi ci sarebbero tante cose di dettaglio, è naturalmente che un'informazione di questo genere è un'informazione, che dire, più personale di così non si riesce a immaginare. Per cui bisogna sviluppare anche la consapevolezza sociale che chiunque ha tra le mani la sequenza completa di una persona è come se avesse in mano una bomba che sta per esplodere, quindi la deve trattare con la massima riservatezza e la massima cautela. Ora questo è un discorso molto nelle grandi linee, andrebbe approfondito, però tra gli elementi di comunicazione sociale importante vi è anche quello di avere la piena consapevolezza che un'informazione globale di questo genere ha una potenzialità discriminatoria nella vita delle persone, vita sia lavorativa sia sociale e in generale molto forte. Amedeo Santosuosso, grazie, vediamo cosa viene fuori, aspettiamo. Grazie, arrivederci. Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo arrivati al nostro quiz. Nella risposta che daremo fra poco alle domande che ci arrivano dagli ascoltatori, ce n'è arrivata una particolare, ne parliamo fra pochissimo. Beh, insomma, in questa risposta troverete anche la risposta al quiz di oggi, che ovviamente ha una sua domanda ed è la seguente: c'è un animale che si accoppia solo quando la luna è all'ultimo quarto. Qual è questo animale? L'elefante, scriverete elefante, il condor, scriverete condor, un vermicello tropicale e ci scriverete verme. Beh, sempre con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince è Il futuro dell'energia, guida alle fonti pulite per chi ha poco tempo per leggere, scritto da Mario Tozzi e Valerio Rossi Albertini, edizioni Ambiente, e questo libro è offerto da Librerie Rizzoli. Mercury 13 è il titolo di un libro. Mercury era il nome del primo progetto americano uomini nello spazio, uomini appunto, 13 erano donne. La scrittrice americana Martha Ackman ha scritto questo libro per la Springer, è stato tradotto anche da Springer in Italia. 13 donne, questo è il contenuto del testo, del loro sogno di volare nello spazio. È una storia di ambizioni, frustrazioni in un'epoca di grandi cambiamenti per la società americana. Ha realizzato questa storia, ve la racconta Ilaria Cannobio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tra i tanti conti alla rovescia, ce ne fu uno, nel luglio del 1969, che ricordiamo tutti. Il piccolo passo, il grande passo, come dimenticarlo? Neil Armstrong è stato il primo uomo a mettere piede sulla Luna e a inaugurare un'epoca. L'epoca dell'uomo nello spazio, di nuovi mondi possibili, di opportunità, ricchezza, benessere. Ma pensate, anche solo per un momento, se il primo uomo sulla Luna fosse stato una donna. Sono i magnifici anni 60 e l'America è una grande provincia borghese dove tutto può succedere. Sono gli anni del rock and roll, della televisione e delle Cadillac. La donna americana è bella e sorridente, porta gonne larghe e corpini stretti, prepara tacchino arrosto nel giorno del ringraziamento e non pensa alla carriera. Nel 1963 la sociologa americana Betty Friedan pubblica il suo libro La mistica della femminilità. Le donne americane degli anni 60 sono infelici, depresse e predisposte all'abuso di alcol e psicofarmaci. In questo libro ho cercato di capire cosa stesse alla base di questa tristezza e mi sono accorta che questo problema è il risultato di un inganno che prende il nome di mistica della femminilità, a causa della quale milioni di americane hanno rinunciato ai loro sogni di realizzazione professionale per dedicarsi esclusivamente alla maternità e alla vita casalinga. Siamo in piena guerra fredda. America e Unione Sovietica si fronteggiano nell'affermare la reciproca superiorità. Terreno di scontro è anche la conquista dello spazio. È il 4 ottobre 1957 e lo Sputnik, primo satellite artificiale in orbita attorno alla Terra, viene lanciato da una base russa. È un duro colpo per l'America, che decide di dedicarsi completamente al settore spaziale. In un discorso pubblico, il presidente Kennedy annuncia che l'America manderà il primo uomo sulla Luna prima della fine del decennio. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. È dunque il momento di scegliere i magnifici, gli uomini che dovranno essere addestrati per volare nello spazio. In una grande cerimonia tenuta il 2 aprile 1959, i sette piloti vengono presentati alla nazione. Essi sono i migliori dei migliori e porteranno gli Stati Uniti nello spazio. Conosciuti come i Mercury 7, essi sono i viaggiatori delle stelle, i nuovi eroi dell'America. In questo clima di celebrazione dei Mercury 7, il dottor Randolph Lovelace, responsabile dei test medici dei futuri astronauti, decide di seguire queste prove anche su una donna. Il peso corporeo femminile e una minore necessità di ossigeno e di cibo potevano infatti essere aspetti vantaggiosi per una missione spaziale. Jerry Cobb è la prima donna ad essere selezionata dal dottor Lovelace. A soli 12 anni, la Cobb compie il suo primo volo aereo su un biplano guidato dal padre. Da quel momento, il volo diventa la sua passione. Sento che la vita è un'avventura spirituale e voglio vivere la mia nel cielo. A 29 anni, Jerry Cobb è già una aviatrice di fama mondiale, quando si sottopone agli esami medici e psichiatrici, ai test di isolamento sensoriale e alle simulazioni di volo. E supera brillantemente tutti i test. La fama della Cobb conquista le copertine delle riviste. Come una star rilascia interviste ai giornali. Tuttavia, le domande che le vengono rivolte molto spesso non sono pertinenti al progetto Mercury. Lei pensa di poter competere con gli uomini? Io non penso di dover competere con gli uomini, ma piuttosto penso che sia gli uomini che le donne dovrebbero volare insieme. Una ragazza carina come lei dovrebbe pensare al matrimonio. Cosa ne pensa? No, in questo momento sono interessata a questo volo spaziale e a nient'altro. Nei mesi successivi vengono selezionate per il progetto altre 25 donne. Di queste, 12 superano i test medici previsti per lo spazio, in alcuni casi con risultati migliori rispetto ai colleghi maschi. Insieme alla Cobb, esse formano il team delle Mercury 13. È il 1963. E mentre in America le Mercury 13 sognano lo spazio, oltre Cortina, si diceva così allora, si celebrava sulle note di un twist polacco la cosmonauta russa Valentina Tereskova, la prima donna a volare in orbita attorno alla Terra. Nonostante il successo della Tereskova e i brillanti risultati ottenuti dalle Mercury 13, la NASA continua a ignorare le istanze delle donne nell'avere accesso alla possibilità di diventare astronauta. Qualcuno parla di discriminazione e le Mercury 13 si fanno avanti e chiedono un dibattito ufficiale sul progetto che le riguarda. Si riunisce una commissione del Congresso americano che, dopo aver attentamente esaminato il caso e sentito i testimoni, dichiara ufficialmente: il programma di selezione della NASA è stato condotto in maniera sostanzialmente ragionevole e opportuna, e sarebbe bene continuare a mantenere gli standard più elevati possibili. A un certo punto in futuro si potrebbe prendere in considerazione l'idea di avviare un programma di ricerca teso a determinare i vantaggi raggiungibili impiegando le donne come astronaute. In via ufficiosa, un membro del Congresso afferma: è il nostro ordine sociale a dettare le differenze tra uomo e donna. E il programma spaziale si limita a seguire le diversità tra i generi imposte dal tempo e dalla storia. Non penso che le donne americane vogliano fare tutto ciò che le donne russe sono costrette a fare. E non mancano i commenti ironici. Gli astronauti maschi sono assolutamente favorevoli a impiegare donne astronauta e stiamo riservando 50 kg di carico utile per l'equipaggiamento ricreativo. Passano 20 anni e nel 1983 Sally Ride è la prima donna americana a salire a bordo dello Space Shuttle. Solo nel 1999 Eileen Collins riveste il ruolo di primo pilota donna. Ma che ne è stato delle Mercury 13? Alcune di loro assistono al volo con il naso all'insù, guardano il futuro e pensano al passato di sacrifici, battaglie e ambizioni. Noi abbiamo goduto di un livello di credibilità, di rispetto e di accettazione che non avremmo avuto se non fosse stato per quelle donne che hanno combattuto in ogni modo per la nostra libertà e per permetterci di avere ciò che abbiamo. Con queste parole, l'astronauta Pamela Monroy, comandante di una delle missioni Shuttle, ricorda il prezioso contributo delle Mercury 13, che con coraggio e determinazione hanno aperto un varco per le donne nel lungo cammino verso lo spazio. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Veniamo da una settimana di luna piena, chiara, e se non sapessi di questa cosa me ne accorgerei, perché hai un centimetro buono di capelli in più. Sì, e di pelo anche. Potrei iniziare anche ad ululare. No, vabbè. Questo spero di no. Vabbè, hai toccato perfettamente il tema, certo, della domanda del nostro ascoltatore di questa settimana. Giacomo, a lei la parola. C'è la leggenda che se uno si taglia i capelli in un particolare momento della luna, non mi ricordo se crescente o calante, i capelli ricresceranno più velocemente. Ecco, allora la mia domanda è questa: qualcuno ha fatto delle misure scientifiche? Qualcuno può dirmi se la luna influenza la crescita dei capelli? Ma soprattutto se la luna influenza la crescita dei capelli tagliati di fresco? Tenete pure presente che comunque io ho i capelli corti sotto i 10 mm e sono ormai stempiato, quindi anche se non riuscite a risolvermi la domanda, sopravviverò. Però è simpatico Giacomo, nel senso che vabbè, lui pone la domanda, però dice vabbè, anche se non mi rispondete tanto me non mi interessa. Vabbè, ma ha un rapporto non personale col problema. Ma che Giacomo, è molto lei bello. Dovrebbe sapere comunque che noi rispondiamo a tutte le domande, anche qualunque, quelle più impossibili. E infatti ci siamo attrezzati anche questa volta. Abbiamo chiamato un biofisico e anche autore di un libro proprio su questi temi, che si chiama Dalla Luna alla Terra, mitologia e realtà degli influssi lunari. Lui è Daniele Venturoli, ha scritto questo libro, forse è doveroso ricordarlo, con Marta Erba e Gianluca Ranzini, edito per Bollati Boringhieri. Buonasera Venturoli. Buonasera. Buonasera. Che cosa rispondiamo al nostro ascoltatore Giacomo di Vicenza? Insomma, qualcuno ha fatto qualche misura? C'è qualche ricerca che ci spiega insomma, il rapporto tra il capello e la luna? Allora, quello dei capelli da luna è uno dei miti che sono più duraturi da un certo punto di vista. Però da un punto di vista scientifico non abbiamo mai trovato assolutamente niente in letteratura. E il nostro libro, che ci siamo posti il problema di cercare nella letteratura scientifica delle eventuali conferme o smentite alle possibili credenze che ci sono. Quindi questa dei capelli, non so, il vino e altre cose del genere. E da questo punto di vista non abbiamo trovato assolutamente niente. Ho fatto recentemente, proprio stamattina, una ricerca anche adesso su un database scientifico e non ci sono nessun altro studio recente in merito, giusto per essere più precisi da quel punto di vista. Ma da che cosa potrebbe dipendere? Mettiamo di metterci lì a studiare sta roba, sarebbe una questione di gravitazione, di masse presenti intorno alla Terra? O anche forse dell'operosità delle cellule in determinati periodi più attivi? Io dicevo, la Luna, con gli effetti che può fare la Luna su di noi sono di tipo gravitazionale, no? Sì, soltanto che tenga conto che c'è un fisico anche che ha detto che praticamente lo stesso effetto che può avere la Luna su un essere umano è come paragonabile all'effetto di una zanzara su un braccio di una persona. Assolutamente, certo. È vero, questo è un dato, quindi non dovrebbe avere, però lei dice non ci sono studi. Di questo tipo no, ci sono altri tipi di studi che riguardano molti altri aspetti da questo punto di vista. Ecco, perché è indubbio, insomma, che la Luna qualche influenza sulla Terra ce l'abbia. Sì, sì, ci sono molte cose che sono sincronizzate in realtà con la Luna. Ad esempio, ci sono molti organismi che hanno delle loro fasi che sono correlate a quelle della Luna. C'è in particolare un verme che si chiama Palolo. È curioso, il più curioso di tutti, che è un verme che si trova praticamente nel tropici, e questo si riproduce sempre, non curiosamente, non con una piena, ma con l'ultimo quarto della Luna, in ottobre-novembre. Ma incredibile. Cioè, prima non ha rapporti. Aspetta. No, prima non ha nessun tipo di rapporto. È bello che si riproduce in talmente tanta quantità che addirittura le popolazioni dell'epoca che se ne cibano, della zona, vanno addirittura a pescarlo, diciamo così, perché ci sono delle acque che brulicano di questi vermi, cioè, e possono facilmente pescarli. Le popolazioni umane se ne cibano? Le popolazioni umane, sì, sì. Interessante. E non è l'unico caso, cioè mi pare che ci siano anche dei pesci che hanno, come dire, la riproduzione delle uova molto strettamente sincronizzata. Ci sono dei pesci particolari, anche sì, i sigandi ad esempio, che anche in questo caso sono in realtà vengono usati per la luna piena, in realtà funziona come se fossero delle lanterne per poter più praticamente pescarne di più da quel punto di vista. E sul vostro libro citate anche un caso particolare che io non conoscevo, di una pianta addirittura che funziona da come una sorta di girasole che si gira a seconda dei raggi lunari. È un tipo di trifoglio che addirittura cerca di evitare, diciamo così, i raggi della luna piena, che è un effetto che si chiama fototropismo in realtà, che si conosce molto bene per quanto riguarda il sole ovviamente. Pensiamo soltanto ai girasoli ed è l'esempio più chiaro e limpido, insomma, da quel punto di vista. Poi ci sono anche delle piante che addirittura, che sono magari notturne, che aprono i loro steli di notte e poi orientano a seconda della luna le foglie, insomma. Però da quello che lei sta dicendo mi sembra che sia la componente luminosa della Luna, che effettivamente, per esempio, quando è piena ha una... Però per il vermetto lei invece diceva che non è per Luna piena ma per l'ultimo quarto, quindi non con tanta luce. La curiosità di questo verme è il fatto appunto che è l'ultimo quarto della Luna, quindi non c'entra Luna piena. È vero, è vero. Mentre invece, ad esempio, Luna piena tiene conto, ad esempio, i comportamenti, indirizzi i comportamenti, ad esempio, dei predatori, che ovviamente quando c'è Luna piena ci vedono meglio e quindi possono più facilmente cercare le loro prede, ad esempio. Ecco, nel libro si parla anche del rapporto della Luna con l'uomo. Ad esempio, la donna, la fisiologia della donna è molto influenzata dalla Luna, dalle fasi. Ma, diciamo che da un certo punto di vista quella è una cosa curiosa, perché c'è il fatto che il ciclo mestruale femminile ha curiosamente la durata di un mese, e un mese è anche il durata del ciclo lunare, se ci pensa, che sono circa 29 giorni e mezzo circa, e quindi è proprio quasi sincronizzato praticamente la durata del ciclo con la durata del ciclo mestruale. Questo è probabilmente soltanto un caso, perché ci sono altri animali che hanno invece durata del ciclo mestruale completamente diverso da questo punto di vista. Senta, ma al di là della Luna, ci sono, per esempio, per il sole sappiamo perfettamente che esporsi al sole fa produrre serotonina al sì. corpo, no? Sì. Ci sono altri fenomeni naturali che hanno influenze forti, significative? Però, ad esempio le stelle, tu dici? Le stelle sappiamo che è un terreno molto terreno molto scivoloso sì, da un certo sì. punto di vista, quindi preferirei lasciamolo da parte, certo tutte, per carità. Lasciarlo da parte. Sì, astrologie quindi. Strambe, lasciamole perdere, certo. Sì, ecco. Però qualcos'altro, non ho idea. Ma ad esempio il mondo in cui viviamo adesso, se possiamo continuare a intendere dal punto di vista ad esempio della luminosità, adesso viviamo in un mondo che produce sa molto più luce di quella che c'era una volta, ad esempio, e allo stesso tempo c'è un inquinamento luminoso che viene prodotto e che ci impedisce di vedere anche il cielo. So che questo ha anche degli effetti anche sul nostro organismo in realtà, cioè così tanta luce in realtà anche durante la notte non solo non ci permette di vedere il cielo, ma addirittura cambia addirittura alcuni cicli di sonno veglia e cose di questo genere da questo punto di vista. Certo, lei ci sta facendo ricordare che per centinaia di migliaia, possiamo anche dire qualche milione di anni, certo. l'umanità era una specie come tutte le altre che quando arrivava la notte era proprio il esatto. buio nero. E da questo punto di vista anche l'importanza della luna era molto intensa, perché una notte di luna piena, se non ci sono altre illuminazioni artificiali, sarebbe praticamente come se ci fosse quasi giorno in certi casi, se il cielo è molto limpido da quel punto di vista. Ecco, senta, per carità, non vorremmo assomigliare a questa roba qui, senta un attimo. Buonasera e bentornati a Kettinger. Brividi. Stasera a Kettinger il singhiozzo può uccidere? Lo chiederemo alla vedova di un mangiatore di spade. Perché l'arca di Noè naufragò? Probabilmente perché era stata imbarcata anche una coppia di tarli. Salti spazio-temporali. È vero che è possibile viaggiare nel tempo? Ve ne parleremo ieri. E ancora la grande scienza abborracciata qui a Kettinger. Il topo masochista si fa frustare dal gatto a nove code? Ecco, volevamo tenerci piuttosto lontani dal sospetto, insomma, che noi siamo una trasmissione che va a pensare cose di questo genere. No, ecco. Però... No, però ad esempio a me interesserebbe questa cosa. La domanda forse, non so, non è proprio scientifica, però ad esempio l'uomo lupo, il licantropo, come la mettiamo con questo rapporto tra l'uomo e la luna? Questa è un'altra cosa curiosa, perché il licantropo è una cosa che è presente in molte culture, tra l'altro, la possibilità del licantropo, dell'uomo lupo, insomma. E era probabilmente legata al fatto che c'è un tipo di malattia, di sindrome, che non permette praticamente, che provoca una sorta di fotofobia, cioè la luce del sole, diciamo, dà molto fastidio a questi malati da questo punto di vista, e probabilmente le persone che soffrono di questo tipo di malattia, che molte volte soffrivano anche di ipertricosi, potevano aver originato il mito dell'uomo lupo da questo punto di vista. Cioè gente che poteva girare sì. solo di notte. Esatto, perché la luce del sole gli faceva male, oppure se doveva andare in giro di giorno, doveva andare in giro bendato e cose del genere, e invece mentre di notte poteva tranquillamente andare in giro solo con la luce della luna. Ecco, ma tenendoci appunto lontani da Voyager, che si interroga se i lemuri hanno influenze sui conti bancari, però in generale noi non abbiamo tanta ricerca su questo tipo di cose. Allora quello che ci si potrebbe chiedere è, forse se si investisse, vabbè, in tempi in cui di grande abbondanza di denaro, ecco, non adesso, se si investisse su queste cose, forse si troverebbe molto di più di quello che sappiamo. Ma questa è una possibilità, bisogna tenere conto anche di una cosa, comunque, che non è detto che non bisogna fare le ricerche. che comunque cercare le periodicità della Luna è molto difficile anche da un punto di vista statistico, perché la Luna ha molti moti e molti cicli in realtà. Noi quello che vediamo è soltanto quello della Luna piena, Luna nuova, eccetera. Poi ci sono anche molti altri tipi di cicli che devono essere messi in corrispondenza dal punto di vista statistico. E quindi questo punto di vista è molto complicato, potrebbe essere una difficoltà in più. Certo. E poi c'è anche il fatto che adesso difficilmente qualche agenzia di finanziamento lo farebbe proponendo degli studi sulla Luna. Insomma. No, certo, manca l'energia elettrica nei laboratori. Grasse, quindi, ecco, no, grasse. Certo, indubbiamente. Ma poi non pensavo solo alla Luna, c'è il mare, no? Vicino al mare, lontani dal mare, in montagna. Beh, qui però di studi ci sono, per esempio, le popolazioni di altura hanno delle fisiologie molto particolari sì. Per esempio, perché sono adattati a vivere a queste alte quote. Da questo punto di vista hanno ad esempio un trasporto dell'ossigeno nel sangue tutto particolare, completamente dal punto di vista, sì. Chi lo sa, insomma, vedremo, staremo a vedere. Se avremo un periodo particolarmente florido nella ricerca, proporremo ai ricercatori di fare anche questo tipo di studio. Magari che in realtà molte volte potrebbe essere che magari si possa anche proporre uno tipo di studio come quelle cose che adesso ci sono, di tipo, non so, Seti e Tom, cose del genere, in cui una persona magari se vuole studiare qual è l'effetto della Luna sul proprio terrazzo, ad esempio, facendo un orto sul terrazzo, può anche vedere, misurando, quanto crescono eventualmente le cose che pianta a seconda dell'effetto della Luna. Una specie di ricerca collettiva. Mettersi in rete con tanti terrazzi. Magari in rete addirittura. Buona idea. Vabbè, va bene. Già come soddisfatto. Sì, ricordiamo a Venturoli che questo libro, per chi fosse curioso, verrà, ovviamente l'abbiamo scoperto in maniera coincidente, insomma, che verrà distribuito col prossimo numero di Focus, mi sembra. Esatto, sì. Va bene, allora ricordiamo il titolo: Dalla Luna alla Terra, mitologia e realtà degli influssi lunari, edizione Bollati Boringhieri. Grazie Venturoli. Va bene, grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Quindi la risposta al nostro quiz, l'avete sentita nell'intervista, è il vermicello tropicale, il palolo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vi parlo in conclusione di puntata di un altro libro, un piccolo libro ben fatto. Gli autori sono Mario Tozzi, che credo conosciate tutti, insomma, geologo ma divulgatore televisivo ormai da un bel po' di anni, e poi anche Valerio Rossi Albertini, che invece è un ricercatore, un fisico nucleare del CNR. Il libro è edito da Edizioni Ambiente. Mi hanno invitato a presentarlo insieme a loro nella sede del CNR a Roma, nei locali della biblioteca, che come sentirete fra poco hanno una loro storia e una loro importanza anche attuale. Come si può scrivere un libro oggi che parli in generale di energia? Beh, i due autori hanno scelto alcuni tagli particolari. Sentiamo prima cosa ci dice Valerio Rossi Albertini. Diciamo che la questione energetica è policentrica, cioè ci sono tante questioni di carattere ambientale, sociale, politico, scientifico che devono essere affrontate di concerto in maniera organica. Sicuramente avere una disponibilità che sembrava illimitata di carburante a basso costo, quindi di energia economica, ha prodotto un po' quello che succede quando c'è troppa disponibilità di cibo. Abbiamo fatto una grande abbuffata e ci siamo accorti che adesso abbiamo il colesterolo alle stelle, che abbiamo delle disfunzioni cardiocircolatorie, che siamo ingrassati e dobbiamo correre rapidamente ai ripari. Allora, ci guardiamo intorno e ci domandiamo, ma abbiamo questa possibilità, abbiamo la capacità di pensare, di immaginare un'alternativa? Ecco, la risposta che diamo nel libro è sì, l'alternativa c'è, ci sono delle alternative, delle risposte che sono tradizionali. L'idea è, bene, questa è una tecnologia consolidata, sappiamo come usarla, sappiamo come sfruttarla, sappiamo quali sono i vantaggi e quali sono i limiti. Ora però, questa è la riflessione, il messaggio forte che diamo nell'ultimo capitolo, si dà il caso che siamo nel XXI secolo, cioè che abbiamo la scienza del terzo millennio a disposizione per affrontare le questioni. C'è una ditta tedesca che nel 2015, quindi dopodomani, comincerà la produzione di vernici con cui si potrà pitturare, o addirittura alcuni sostengono che sarà dello spray, è ancora sotto segreto industriale, quindi non si sa esattamente, degli spray, come immaginate, della vernice, spray o della lacca, con cui si potranno coprire le superfici degli edifici e con opportuni contatti elettrici fare dell'intera facciata di un edificio un mega pannello fotovoltaico. Mario Tozzi invece, con un aneddoto divertente, anzi sarebbe meglio definirlo, lo capirete subito, tragicomico, ci spiega un altro parametro culturale che sta alla base del testo. La risposta tecnologica io la esemplifico sempre nel paradosso del cesso di Kobe. Perché, scusate, uso questa cosa, perché quando andai a Kobe nel 95, quando c'è un tremendo terremoto in Giappone, allora facevo solo il geologo, tutti i giornalisti e gli scienziati, i ricercatori, vennero messi in una parte della città che era stata un po' risparmiata dai 6.000 morti che c'erano stati. Però la corrente elettrica era convogliata per le foto elettriche, ancora si cercavano persone sotto le macerie. E nell'albergo dove eravamo noi, il bagno era una meraviglia tecnologica, il cesso, dico, proprio quello di cui stavo parlando. Era tutta una vasca, grosso, di porcellana, con tutto un telecomando che, se volevi, c'avevi lo scarico che girava orario o antiorario, che è una cosa della cui utilità, diciamo, mi sfugge. L'acqua poteva essere rosa, azzurra, profumata, vabbè, quello forse. E musica anche si poteva diffondere, infine c'era una specie di piccolo alieno che veniva usato come bidet nello stesso, diciamo, supporto. Però tutto questo, nemmeno lo sciacquone, poteva funzionare se non c'era energia elettrica, dunque tutti nella latrina, come tutti gli altri, giusto che sia. Cioè, non, ecco, quel tipo di tecnologia lì a me sembra particolarmente inutile, perché non è supportata, non è innervata, è una cosa, diciamo, quasi fine a se stessa, è andata per conto suo. Il meccanismo catenella-sciacquone contrappeso per me è perfetto, va benissimo pure oggi, vabbè, l'abbiamo voluto incassare nel muro, dunque non lo vediamo più, eppure per questo è più difficile da riparare. La ditta che fa quelle cose, che si chiama Geberit, mi pare, dice che se ne guasta uno su un milione soltanto di questi qua che sono incassati, che giustamente sono più difficili poi da riparare, dovevano garantire un livello. Però è diventata quasi, non so come dire, mi è sembrato un esercizio svincolato da quelle che dovessero essere le domande nostre a proposito di un futuro in cui la tecnologia ci può rendere migliore la vita e non solo risolvere i problemi che altra tecnologia ha procurato. Io in questo devo fare un po', faccio un po' il passatista, nel senso che voglio sapere perché per leggere, per manovrare il mio telefonino ho bisogno di un trattato alto così, non va bene, cioè c'è qualche cosa di questo che di fondo non mi convince. Allora chiudo questo pippone dicendo semplicemente che scritto in quella maniera riflette un po' anche, penso anche da parte di Valerio, ma comunque senz'altro da parte mia, un po' questo aspetto qui, cioè non vediamo la sua importantissima, poi in questo ente, innovazione e ricerca, sono naturalmente i must, però credo che soprattutto questo ente, ma comunque il mondo della ricerca italiana, abbia questa forte radice culturale che addirittura potrebbe essere una tu importante rispetto ad altre nazioni in cui veramente il progresso scientifico si è quasi slegato da quello culturale, no? Penso un po' agli Stati Uniti, ma anche al Giappone. Noi invece questa radice culturale la dovremmo mostrare orgogliosi, recuperarla, io credo. Ma chi fa ricerca e scrive libri? Allora ancora Albertini, e poi a seguire invece daremo uno sguardo alla biblioteca del CNR. Quando un ricercatore decide di impiegare un'ora, una giornata, una settimana del suo tempo per scrivere un libro come questo, un libro divulgativo, fa un'attività che in senso stretto non gli verrà riconosciuta, che non potrà portare come titolazione in un futuro concorso, e dunque è un atto del quale va dato riconoscimento a quei ricercatori che decidono di svolgere questa attività. Noi abbiamo la fortuna, devo dire, al CNR di averne diversi, di averne parecchi. Sono qui nella biblioteca del CNR, fra poco presenteremo il libro, ma qua sono davanti a un busto di Guglielmo Marconi con Luisa De Biagi, che è una delle responsabili nella gestione di questa biblioteca, che sta raccogliendo materiale da quando? Beh, da quando proprio Guglielmo Marconi volle istituire qui una bibliografia scientifico-tecnica italiana, predisponendo logisticamente questi ambienti per una biblioteca che sarebbe stata la più importante biblioteca scientifico-tecnica italiana. E infatti abbiamo il deposito legale di tutte le pubblicazioni scientifico-tecniche su qualsiasi supporto, quindi anche digitale, online o cartaceo. E questa è la storia più recente, ma la cosa più singolare è che qui voi avete una documentazione di articoli di ricerca pubblicati su un numero estremamente ampio di riviste, che non sono però solo le riviste italiane, ci sono anche molte riviste internazionali. Sì, logicamente ci sono anche molte riviste internazionali che acquisiamo a sottoscrizione tramite consorzi, non so, tutte le riviste della McGraw-Hill, tutte le riviste della Springer, dell'Elsevier e poi siamo centro nazionale di riferimento della letteratura grigia italiana nell'ambito di un programma che si chiama Open Grey. Mi spieghi cos'è, ci spieghi cos'è questa letteratura grigia? Sì, la letteratura grigia riguarda tutte le pubblicazioni di qualsiasi genere, anche possono essere anche delle dispense, insomma, o delle newsletter che non veicolano attraverso i normali circuiti commerciali, oppure che sono prodotte, diciamo, non sono state ancora pubblicate, come possono essere i preprint, oppure relazioni interne, bilanci, che comunque sono strumenti utili al ricercatore, in quanto spesso e volentieri magari, diciamo, contengono, non so, diagrammi, statistiche che poi non vengono ufficialmente pubblicate. C'è qualche progetto particolare di sviluppo al quale state lavorando che vi sembra interessante? Sì. Beh, connesso con, diciamo, la letteratura grigia italiana, l'Open Grey, e anche questo Open Access che si chiama Solar CNR, che... Sì, esattamente sì. Qual è il servizio che viene fornito, che verrebbe fornito da questo progetto? Sì, dunque, tutti coloro che abbiano sottoposto a referaggio, no, una rivista, a giudizio un articolo e siano in attesa dell'avvenuta, insomma, valutazione e pubblicazione, oppure tutti coloro che abbiano pubblicato un rapporto tecnico, oppure gli stessi ragazzi neolaureati che hanno una tesi, quindi con certificata validata dall'università, e vogliano anche per motivi di diritto di proprietà intellettuale depositarla presso di noi e renderla accessibile a tutti, possono farlo presso, appunto, autoarchiviandosi sul nostro Open Access che si chiama Solar CNR. Vi ricordo allora in chiusura il titolo del libro, Il futuro dell'energia, edizioni Ambiente, scritto da Valerio Rossi Albertini, Mario Tozzi, e sono contento, Chiara, che tu sia qui per una buona notizia. Molto sì. Bello chiudere con una sì, buona ci tenevamo notizia. Perché veramente è una notizia che è arrivata a fine di questa settimana e quindi ci tenevamo a darla subito perché, insomma, in tutto questo purtroppo anno che è passato un po' di crisi e sì, purtroppo non felice per la ricerca, in realtà si sta muovendo qualcosa. Siamo in Toscana e proprio due giorni fa è uscito un bando di 200 assegni di ricerca per ricerche di tipo scientifico. Ora chiederemo di che cosa si tratta, e i ricercatori e tutti coloro che, appunto, lavorano per gli enti di ricerca toscani possono partecipare e hanno un tempo di 60 giorni per rispondere al bando. Qui con noi stasera c'è il vicepresidente di Regione Toscana che ha la delega per i rapporti con le università e la ricerca, Stella Targetti. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera. Finalmente buonasera, arrivano delle buone notizie. Sono Partiamo tanti. Dalla Toscana. Sono tantissime 200 borse. Sono sì. Praticamente posti di lavoro, poi, no? Assolutamente, posti di lavoro, tra l'altro per due anni, perché noi con questi assegni copriamo dell'importo di 30.000 euro annuo. Annui di fatto due anni di lavoro, e credo che questo sia una cosa importante e si pone in continuità, ci tengo a sottolinearlo, con un'altra iniziativa che abbiamo preso pochi mesi fa, che sono un intervento anche su borse aggiuntive ai dottorati di ricerca. Quindi per noi questo è un asse di intervento che si pone in continuità con quello precedente, assicurare quindi braccia e teste alla ricerca in un momento di grande difficoltà di reclutamento del nostro sistema di ricerca toscano. Ecco, chi può essere coinvolto? A chi è rivolto? Che aree proprio? Sono fondamentalmente giovani under 35 anni che abbiano conseguito il dottorato, proprio in continuità anche con iniziative che abbiamo già intrapreso, o se laureati abbiano almeno, diciamo, una esperienza di lavoro certificata di 3 anni in centri di ricerca e università toscane, e non solo. I temi abbiamo cercato di, in realtà le aree sono abbastanza ampie, però abbiamo in qualche modo selezionato degli ambiti di maggiore interesse per noi, anche dove sappiamo essere posizionate le eccellenze delle infrastrutture di ricerca toscane, quindi scienze della vita, biorobotica, neuroscienze, fotonica, social innovation, anche spazio e aerospazio, quindi temi ampi, ma comunque già ci sono delle scelte importanti. Senta, nel vostro comunicato c'è un passaggio che mi sembra significativo, da una parte ci rende felici, dall'altra sottolinea delle cose che sarebbe meglio non dover sottolineare. Voi dice: assicurata la trasparenza nelle procedure di selezione, perché evidentemente è vero che il problema esiste. È un po' un problema magari italiano, lei non può parlare, sì. Allora, parliamo chiaro, nel senso, noi quello, in realtà la selezione degli assegnatari verrà fatta dagli enti di ricerca beneficiari dell'università. Allora, cosa abbiamo cercato di fare noi? Di mettere in qualche modo dei paletti, non soltanto sulle aree tematiche, ma anche di dare delle indicazioni sui tipi di progetti che possono candidare, sui quali puoi bandire gli assegni di ricerca, massimo 3 per progetto di ricerca. Okay. E questo perché vorremmo evitare, e io lo dico qui anche proprio apertamente, che con questo sistema si vada in qualche modo a finanziare portaborse di illustri docenti universitari, ecco. Sì. Noi, dobbiamo dirlo, certo. Mi piace di essere esplicita, quindi abbiamo cercato, per quanto possibile ovviamente, perché poi, come ho detto, dobbiamo necessariamente poi affidare il reclutamento degli assegnatari agli enti beneficiari. Ma è corretto, però ponendo, certo, dei paletti. Quindi, in un periodo in cui appunto la parola tagli, diciamo che la fa da padrone, e questi soldini, diciamo, da dove arrivano? Da fondi europei. Ok, comunque tutte le informazioni su www.regione.toscana.it. Grazie Presidente. Grazie a voi. Oh, se va così ogni settimana sono 10.000 posti di lavoro. Sì. Se abbiamo sì. un annuncio così. Speriamo, auguriamocelo. Ci sentiamo fra 7 giorni. Arrivederci. Buona settimana. Ciao.